Sudafrica tanto soffrì. Domani darà per Dio il suo nome, la gente tiene che decidere sul proprio destino, d'accordo con sua alma. Van a morir, tecnología quiere producir, Mandela tiene la llave de honor, es la libertad.